si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Eccoci qua finalmente, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Carlo, ce l'abbiamo fatta alle 8:37 minuti, siamo in onda. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buona domenica. Buona domenica a tutti, oggi è giornata di personaggio, si indovina il personaggio della settimana che non necessariamente è un uomo ma è un evento, una persona, un qualcosa di positivo ovviamente, un si può fare della settimana e per indovinarlo bisogna ovviamente seguire gli indizi e poi telefonare all'800 24 00 24, anche a partire da subito, adesso diamo il primo indizio e poi c'è sempre il numero per SMS e WhatsApp 349 238 6666, ma non vale, vero Carlo, scrivere lì il nome del personaggio della settimana, lì non si vince il libro. No, lì non vale, bisogna assolutamente chiamare, prenotarsi, ci si può già prenotare da adesso e poi ricordiamo come da abitudine, ripetiamo l'ingaggio di ieri visto il successo, le vostre prime volte dopo la quarantena, insomma in questa fase 2 di cauta ripartenza, la prima volta che siete andati al parrucchiere, la prima volta che avete riscoperto il gelato o altre cose. Com'è andata? Come sono le nuove regole? Allora, io do subito il primo indizio e poi Carlo vorrei da te magari un suggerimento se questa settimana hai scoperto qualcosa tra libri o video o podcast, non so dove sei andato ad esplorare. Io do l'indizio che ce l'ho. Tanti hanno controllato il suo lavoro. Vi ho facilitato rispetto all'indizio originario. Tanti hanno controllato il suo lavoro. Personaggio della settimana. Confermo che Laura vi ha aiutato con questo indizio e condivido l'aiuto in questo ultimo giorno di maggio. Per quanto riguarda film, libri, l'altra sera ho visto un film che doveva uscire al cinema, credo a marzo, poi c'è accaduto quello che tutti sappiamo e che ancora oggi scontiamo a casa. Il film l'hanno quindi posticipato e poi a un certo punto hanno deciso di distribuirlo nelle case, ma on demand. Quindi te lo vedi al tuo divano, ma pagando un biglietto, come al cinema. Costo dell'operazione, 7,90 euro. All'inizio ho pensato, visto che il televisore e pure la poltrona ce li metto io, non mi sembra poco. Però poi ho anche riflettuto, siamo in due a vederlo, non sono neanche 4 euro a testa, per una famiglia di 4 persone sarebbero 2 euro a testa, molto meno del cinema. Certo, se sei da solo, o ti guardi un altro film gratuito, oppure vai dalla vicina e lo condividete ognuno sulla propria porzione di divano, mascherina, distanza di sicurezza di 2 braccia e invitate anche quello del terzo piano, così dividete per 3. Comunque, il film lo volevo assolutamente vedere il prima possibile, anche perché a fine febbraio di quest'anno ha vinto l'Orso d'Argento per la miglior sceneggiatura al Festival di Berlino, quindi ero curiosissimo. Quindi vada per l'on demand. Il film è Favolacce. La regia è dei due fratelli gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo e bisogna vederlo per la sua importanza e anche perché è impossibile da raccontare. Si parte da un diario ritrovato, c'è una periferia ma nemmeno troppo periferia, è un po' onirico, un po' favoloso ma moltissimo concreto, parla di bambini, anzi no, parla di noi ma lo sguardo è quello loro. Ci sono 3 famiglie, il rumore delle cicale, c'è sempre qualcosa che incombe su tutto il film e lo spettatore se ne accorge anche solo fisicamente dalla postura che assume mentre assiste alla proiezione. È popolato da strane bestie umane, attori che viene voglia veramente di definire mostruosamente bravi, tra cui Elio Germano. Ci sono certi dialoghi, alcune scene che per la loro potenza non potrete dimenticare. Non voglio dire molto del film perché è un viaggio insieme complicato, terribile, commovente, ma anche personale. Non piacerà a tutti. Io non vedo l'ora di vedere il loro prossimo film che si dice sarà un western. Sicuramente Favolacce vale il prezzo del biglietto. anche se siete da soli. Anche se siete a casa, certo. Allora, Carlo, io invece nel primo collegamento di questa giornata voglio portarti a Parigi, anzi dico già che avremo tanta Francia in questa puntata. Ti porto a Parigi direttamente, là dove si trova Chiara Figazzolo, che è una giovane dottoranda adesso all'Istituto Pasteur, laureata in chimica a Pavia, ghisleriana, perché loro mi dicono: Chiara, buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno. Buongiorno, ghisleriani buongiorno. Siete sempre, insomma, non si è mai ex del collegio Ghislieri, è vero? Esatto, si rimane sempre parte del collegio. Si rimane parte del collegio, tra l'altro infatti tu con il collegio ti sei recentemente collegata per parlare di una app che con un team internazionale no, del quale tu fai parte ha partecipato e avete vinto al Covid Hackathon del MIT di Boston addirittura, quindi un team internazionale. Tu sei a Parigi, però venivi da Pavia. Loro, gli altri dove sono? Ovunque nel mondo, ho visto, dal Pakistan ai paesi sì. arabi, non mi ricordo più quale. Sì, gli altri sono veramente in tutto il mondo, in quattro altri continenti. Allora, in realtà abbiamo un'altra rappresentante italiana che lavora con me proprio sul business development ed è Elisa Figazzolo. Che peraltro è tua cugina, giusto? Esatto. Quindi siete una famiglia dedicata. Esatto. E lei è studentessa di medicina a Pavia. E poi abbiamo... Inizieranno a pensare che in Italia ci chiamiamo tutti Figazzolo. Esatto. Allora, e poi abbiamo questo AI engineer che è pakistano ma vive a Singapore e si chiama Buran Tayab. Dopodiché c'è Tracy Kian che al momento vive a Toronto, studia software engineering ma in realtà è basata ed è originaria della Cina. Dopodiché abbiamo Selena Liu che è l'app developer, anche lei a Toronto ma di origini australiane. E poi c'è Marcos Teixeira che è il web developer ed è brasiliano e al momento rimane in Brasile, quindi è l'unico che conferma la sua nazionalità. Benissimo, allora voi tutti insieme avete partecipato a questo Covid Hackathon con una app che serve a fare cosa? Sì, allora l'applicazione si chiama Isabella ed è un'applicazione di ottimizzazione degli spazi o management degli spazi. Però la cosa molto bella è che è molto semplice da utilizzare, quindi basta caricare una foto della stanza da ottimizzare sul proprio cellulare o su un iPad e a questo punto Isabella comunica la distribuzione ottimizzata degli spazi, dei diversi oggetti che l'utente comunica. Quindi l'utente dice: io voglio porre tali oggetti di tali dimensioni e Isabella dice: perfetto, allora dalla foto questo è come dovete sistemarli, così è come li dovete sistemare. È comodissima, ecco. la voglio anche per mettere a posto a casa mia, mi sembra straordinaria. E sarebbe perfetto, noi ne saremmo felici. Beh, ci saranno, esatto, voi state studiando... Ascolta, sì. La cosa che mi è sembrata bellissima anche in tutta questa storia, che è stupenda e consiglio a tutti anche di informarsene di questa app Isabella fatta da una squadra di persone che neanche si conoscevano e si sono messe insieme da tutto il mondo. In più ho letto che tu in realtà hai una formazione in chimica, però all'interno di questo progetto invece hai deciso di sviluppare il business plan, quindi cercare investitori e finanziamenti e anche il marketing, e questo mi sembra un esempio straordinario di adattabilità. Cioè tu nasci chimica, però per questo progetto decidi di fare il business plan. Sì, esatto. Infatti, allora, io ed Elisa siamo entrambe di formazione puramente scientifica, però siamo sempre state appassionate di business. Cioè, mi ricordo in famiglia chiacchierate proprio relative sempre alla parte business, tutte e due ci siamo sempre molto informate. E allora questa volta abbiamo detto: ma non abbiamo nulla da perdere, lanciamoci nella parte business, vediamo se riusciamo a... insomma fare qualcosa di interessante, e ci stiamo divertendo tantissimo perché è proprio un ambito in cui si impara sul momento, quindi siamo... Si sente dalla tua voce e ne siamo felici. E comunque questa applicazione ha veramente tantissime applicazioni, infatti può essere utilizzata per la riorganizzazione di scuole, di spazi, di ospedali, può essere utilizzata per riorganizzare i locali, i ristoranti in vista della social distancing che appunto serve per la fase 2, l'abbiamo pensata per degli emergency camps, quindi in giro per il mondo quando ci sono delle emergenze o delle piccole epidemie, usarla per ottimizzare la distribuzione dei letti nei vari padiglioni, insomma, quindi ha veramente moltissime applicazioni. E quindi si chiama Isabella per scelta di uno di voi, che l'ha sempre chiamata Isabella fin dall'inizio e alla fine vi è piaciuto. Esatto, infatti la squadra originaria che ha vinto, la cui idea ha vinto all'Hackathon, era formata da Elisa, da Buran, da Tracy e da Marcos. E questo Buran, quindi l'AI engineer pakistano che ha avuto l'idea, l'ha chiamata Isabella. Ed Elisa mi diceva che nessuno ha mai, insomma, chiesto come mai. Si sembra un po' strano che il nome sia appunto italiano, ma l'idea sia venuta dall'ingegnere pakistano, però appunto l'abbiamo tenuto e ci è piaciuto molto. Chissà cosa aveva nel suo immaginario Isabella Rossellini o Isabella qualcosa, chi lo sa, comunque gli è piaciuta così. Allora Chiara, noi ti dobbiamo lasciare, abbiamo la viabilità che incombe, ma vi facciamo a tutti voi del vostro gruppo un grande in bocca al lupo e anche a te un buon proseguimento su questa nuova strada che hai intrapreso dalla chimica al business plan e anche poi dopo, no, le future applicazioni. Davvero ancora complimenti, ciao, a presto. Grazie, ciao ciao. Ciao. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E torniamo in Francia perché, come vi abbiamo detto, questa puntata abbiamo tanti collegamenti con la Francia. Questa volta ci colleghiamo con Serge Quadrupani, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io in realtà ho pensato a lei, come le avevo detto, perché è stata recentemente la giornata mondiale delle api e io nel pensare a questo ho pensato al romanzo che lei scrisse ormai diversi anni fa, del quale parlammo, che si intitola La rivoluzione delle api, ma ho scoperto che lei ha fatto mille altre cose nel frattempo, non solo ha scritto molto ma ha anche tradotto Andrea Camilleri. Io ho pensato che tradurre in francese Andrea Camilleri e il commissario Montalbano e la sua neolingua, diciamo così, fosse un enorme si può fare, visto che questa trasmissione si intitola Si può fare. Quindi da allora davvero ne è passato di tempo, dalla rivoluzione delle api, no? È tutto un po' diverso, però la sua verve è sempre quella. È passato il tempo, ma la situazione è sempre la stessa da quello che riguarda le api. Cioè sono minacciate, sono minacciate dal nostro modo di vivere e tutta una civilizzazione che sta minacciando la vita, e lo vediamo, e come adesso con la crisi del coronavirus. Che è un po' la stessa cosa, la distruzione della natura, degli equilibri naturali. Vediamo qua il libro La rivoluzione delle api parla del fatto che sono le grandi compagnie tipo Monsanto che stanno distruggendo gli equilibri naturali, no? Gli equilibri naturali, e dunque sappiamo che una cosa che non sopportano queste compagnie è la parola gratis, e di fatto le api fanno un lavoro gratis, un lavoro immane che è molto importante per la pollinizzazione dei fiori e dell'agricoltura, che funziona, è molto importante per l'agricoltura. E sappiamo che se le api spariscono, tutto l'equilibrio e la vita stessa sulla terra, certo, che è minacciato. E dunque alla fine di questo romanzo, di questo giallo, avevo immaginato senza sapere un modo di fare delle compagnie per creare qualcosa di artificiale, e quello che fanno queste compagnie è fare sparire gli equilibri naturali per creare nuovi equilibri artificiali, ma che fanno pagare, che non sono più gratis. E avevo immaginato un modo di pollinizzazione che sarebbe nelle mani delle compagnie, e pensavo che fosse immaginare. Poi ho scoperto dopo qualche mese che in realtà c'è. In realtà, e stanno cercando di creare questa cosa. E questo mi ha fatto molta impressione. Ah beh, certo, certo. Ma non dico che cos'è, perché così la gente compra il libro. Ah beh, giusto. Fa bene, mi sembra corretto. Senta, noi ieri abbiamo parlato. Perché è un giallo. È un giallo, infatti, non si dice mai il finale del giallo. Tra l'altro, lei piace scrivere gialli, quindi, oltre a tra la traduzione e quello che è la sua scrittura, il giallo mi sembra proprio una forma che la diverte. Sì, poi è anche un modo di capire la realtà. Tra l'altro, perché la realtà assomiglia molto a un giallo spesso, ma i miei gialli sono un po' come la realtà, cioè che alla fine non si sa veramente, o si sa chi è il vero criminale, ma il vero criminale non viene mai arrestato, cioè il mandante finale, perché il mandante finale spesso è un potente e qualcuno, non è tanto una persona che è tutto un sistema. Esatto, a volte è più un sistema e quindi inafferrabile e incontenibile a volte, anche un modo, uno schema di pensiero a volte. Sì, sì, esattamente. Noi ieri abbiamo, Carlo, sentivo... Senta, ma mi incuriosisce il fatto ma che lei... Ma come traduce Camilleri in francese? Non è questa la domanda? Come traduce Camilleri in francese? Com'è possibile? Perfetto, perfetto. È esattamente questa la domanda, va bene. È la domanda, diciamo che è questa che mi sembra preparato su questa. Sì, perché mi è fatto da quando ho cominciato a tradurlo, mi è fatto almeno una volta a settimana in Italia e lo capisco bene, ma perfetto. non è una cosa un po' strana, perché devo confessare che in un certo modo ho imparato l'italiano leggendo Camilleri, cioè malgrado il fatto che mi chiamo Quadrupani, non conoscevo l'italiano. Poi ho incontrato un'italiana, che è il modo molto più interessante e bello di imparare una lingua, e attraverso di lei... Ha conosciuto prima Camilleri o prima sua moglie? Prima ho incontrato l'italiana e poi dopo lei, visto che lei è Maruzza Loria, che adesso è traduttrice dall'italiano francese. Quindi siete una famiglia di traduttori ormai. Sì, e a casa sua ho scoperto questi libri di Camilleri, che non era ancora molto... molto famoso in Italia, e ho cominciato a leggere libri tra quelli di Camilleri, e dunque ho letto un po' di tutto, e ho letto Camilleri come ho letto gli altri italiani, e dunque è stato un incontro. Come quando uno impara la lingua materna, è un incontro non ragionata, diciamo. E dunque, partendo da questo punto di partenza, quando ho cominciato a voler fare conoscere Camilleri in Francia, ho cercato a fare sentire la lingua di Camilleri come un italiano che non è siciliano sente questa lingua, cioè il sentimento di familiarità, ma anche di stranezza, le due insieme. E dunque, possiamo dire che lei più che l'italiano ha direttamente studiato il camillerese. Esattamente, ho studiato il camillerese insieme all'italiano, le due lingue nello stesso tempo. Dunque sono stato privilegiato da questo punto di vista. Allora, noi dobbiamo salutarla, grazie. Ma la ringraziamo molto di questo collegamento, ci ha fatto molto piacere ricordare anche la rivoluzione delle api e quanto gira attorno a questo mondo. Serge Quadrupani, buon lavoro, buon proseguimento, alla prossima occasione. C'è GR24. Si può fare. Ciao, siamo le radio italiane. Tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. Ma come ricordarlo? Ora non sono una signora. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I dress like shit, call it fashion, but your fashion's the shit. I never thought twice in life, but it's time I realize loving you ain't easy. Parliamo tanto di ripartenza in questi giorni, sì, partire però come, no Carlo? Questo è il grande quesito al quale dobbiamo rispondere. Non parlo solo di mascherine, di sicurezza, ma proprio no, di come ripensiamo il nostro futuro. Tutti dicono che è l'occasione di ripensarlo. Anche di psiche, direi. Anche di psiche, certo, di tutto. Esatto, qual è il senso a questo punto? Allora, il mondo che rinasce, questo è il titolo che è stato scelto per il volume curato da Andrea Ferrazzi, che è direttore di Confindustria Belluno, al quale diamo buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questo dramma è un'occasione, giusto direttore? Deve essere un'occasione. C'è tanto dramma, ovviamente, dobbiamo ripianificare o possiamo ripianificare. All'interno di questo volume lei ha scritto una bella, bellissima introduzione con così molti spunti di riflessione per chi lo vorrà leggere. Tra l'altro è un volume, no, che va, il cui ricavato va in beneficenza, giusto? Sì, il ricavato va in beneficenza all'associazione SOS Villaggio Italia, che aiuta i bambini in difficoltà a poter proseguire gli studi. Quindi diciamo è anche una buona azione, oltre che un buon volume per riflettere, perché ci sono dentro contributi di adesso poi diamo tutto l'elenco, ma affrontiamo un po', no, la questione è proprio questa: abbiamo bisogno di ripartire, possiamo ripartire con dei presupposti diversi, ne sentiamo tanto parlare, però io vorrei capire poi come si può fare, citando il nostro programma, a ripartire con, no, un afflato diverso, con un'economia diversa, con posti di lavoro diversi, perché comunque siamo davanti a un dramma da un punto di vista economico-occupazionale. Sì, il dramma lo stiamo già vivendo e probabilmente lo vivremo ancora in modo più intenso nelle prossime settimane e mesi. È evidente che questo deve essere poi anche un'occasione per ripensare un po' il modello di sviluppo che abbiamo utilizzato in tutti questi anni, e soprattutto dobbiamo imparare la lezione e smetterla di autoassolverci dicendo che quello che è successo è un cigno nero, ovvero un evento imprevisto. In realtà l'evento era assolutamente previsto, c'erano studi scientifici. Ma non solo, il tema non era legato soltanto al mondo dell'accademia, al mondo degli specialisti, c'erano anche dei libri, cito Quammen, Spillover oppure TED Talk, ma tutti hanno visto il TED di Bill Gates che nel 2015 ci metteva in guardia di fronte a questo rischio. abbiamo preferito non vederlo, abbiamo guardato la quotidianità non preoccupandoci di quello che invece avrebbe potuto succedere, anzi che sapevamo che sarebbe successo, non sapevamo quando, ma sapevamo che sarebbe successo. Le conseguenze di questa mentalità, che per usare le parole del grande Simon Sinek, che è una mentalità finita, le abbiamo sotto gli occhi purtroppo in questi giorni e poi li avremo ancora le prossime settimane. Ma abbiamo, diciamo così, il tempo per, cioè le cose qui vanno molto velocemente, adesso vogliamo ripartire, dobbiamo in qualche maniera, no, ricominciare, e la maniera che ci viene più spontanea è ricominciare come facevamo fino a 6 mesi fa. Se vogliamo cambiare, dobbiamo cambiare rapidamente, cioè come facciamo questa trasformazione? Beh, c'è un tema di tattica e un tema di strategia. La tattica è quella del per ricominciare, ripartire, rimettere in moto la macchina dell'economia, i posti di lavoro soprattutto, e quindi la cosa più facile, che sarà probabilmente ciò che accadrà, sarà riprendere da dove abbiamo cominciato. Però poi c'è il tema della strategia, quindi di pensare un po' più a lungo termine, ed è questa la vera sfida. Ed è qui che politiche e aziende devono creare delle sinergie, soprattutto devono cambiare mentalità e per iniziare a programmare un futuro che tenga in considerazione le grandi sfide, e la sfida delle sfide, la sfida più importante, è la lotta ai cambiamenti climatici. Se anche lì ci comportiamo come ci siamo comportati di fronte alla pandemia, avremo dei danni economici, sociali, culturali di portata molto superiore a quella della pandemia. Anche qui abbiamo studi che ci mettono in guardia sui rischi, ci dicono che dobbiamo cancellare, abbattere le emissioni di CO2 entro il 2030, e ci dicono anche di quali saranno i danni con 1, 2 o 3 gradi in più nei prossimi anni. Quindi i rischi sono veramente grandi. Se non riprogrammiamo il motore economico e sociale globale, la pandemia sarà soltanto un ricordo quasi lieto di fronte alle conseguenze che potremmo vivere. Però adesso, Carlo, non vorrei... Mi sembra un pensiero veramente lucido, e la ringrazio molto. È anche bello sentirsi dire sapevamo che sarebbe successo, è uno spostamento, se vogliamo, dalla narrazione che abbiamo avuto fino adesso. Infatti, se mi permette una battuta, mi sembra che la sua non sia esattamente la posizione ufficiale di Confindustria su questi temi, ma mi sembra veramente molto lucida come la differenza fra tattica e strategia. La cosa che le volevo chiedere quali sono i più grossi errori che rischiamo di fare adesso, subito, e che invece dovremmo evitare? Ma gli errori è proprio quello di autoassolverci, quindi facilitare questa narrazione che ci sta inseguendo, che è quella della metafora del cigno nero, pensare che sia stata una sfortuna, una cosa che ci è capitata, che non potevamo conoscere, e che quindi in questo modo ci autoassolviamo e non ragioniamo invece su che cosa abbiamo sbagliato, e quindi capire da che cosa abbiamo sbagliato per riprogrammare il futuro. L'altro errore che possiamo fare è quello di cedere al rancore, alla nostalgia e a questi sentimenti negativi, che rischiano soltanto di alimentare forze politiche e sociali che sicuramente non aiuteranno né la ripresa economica né il benessere sociale. Giustissimo. Lei come si confronta su questo con gli associati, appunto, quindi gli industriali della sua zona, perché poi ognuno lavora nel suo contesto. Voi come pensate di ripartire in modo diverso? Vi state dando delle regole specifiche? Diciamo che noi viviamo in un contesto fortunato, perché siamo ai piedi delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, e negli imprenditori come nei cittadini di questi territori la sostenibilità ambientale, quindi l'attenzione per l'ambiente, è quasi insita nel DNA. E così come lo è stato in tutte le imprese, direi italiane, il tema della salute dei lavoratori. Quindi su questo le regole, non solo quelle scritte ma anche, come dire, quelle morali, sono assolutamente ben presenti. È chiaro che serve uno sforzo in più, che è importante, è un salto culturale, è quello di fare in modo che siano le imprese gli agenti di cambiamento e non a rinunciare a questo ruolo importante solo sperando che sia soltanto la politica, lo Stato, la parte pubblica a farlo. Devono essere le aziende a sensibilizzare la politica perché metta in moto tutte quelle azioni che possano essere da contrasto ai cambiamenti climatici e che producano un sistema di sviluppo che sia sostenibile e soprattutto inclusivo. La ringraziamo molto Andrea Ferrazzi, ricordo il direttore di Confindustria Belluno, ricordo anche il titolo del libro, Il mondo che rinasce, edito da Rubbettino. Ci sono testi oltre che di appunto Andrea Ferrazzi, per esempio Paolo Magri, Gianni Silvestrini, Paola Gioia, Tommaso Labate, Maria Elisabetta Lanzone, insomma veramente un volume molto ricco. Come abbiamo detto, il ricavato va all'associazione Onlus SOS Villaggi dei Bambini. Buona giornata, buon proseguimento. Grazie. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E penso a te che sei in cima alla salita e già respiri la libertà della discesa. E io che ho fatto la tua stessa fatica arriverò tra un'ora con la tua gomma bucata. Si chiama La canzone del ciclista, è un pezzo dei Tête de Bois. E proprio Andrea Satta, leader di questo gruppo, scrittore pediatra, tra l'altro, è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno. Fa molto piacere sentirla, mi fa molto piacere anche aver sentito, no, la vostra canzone del ciclista, perché parliamo di un argomento molto legato ai ciclisti, parliamo di un concerto a pedali. Voi già siete degli esperti in materia, adesso potrebbe diventare davvero qualcosa di diffuso, no? Come funziona questo concerto a pedali? Ma funziona che si viene con la propria bicicletta, quindi è la propria bici che fa, come dire, la magia. Vieni col tuo compagno, con la tua amica, con il tuo figlio, con chi vuoi, porti la tua bici e qui non inquini, non hai problemi di parcheggio, un afflusso semplice, singolare in tutti i sensi, e quindi ti sei prenotato online, sarai tu il motore dello spettacolo, la bicicletta viene messa su un cavalletto, dinamo, inverter, trasformatori, accumulatori, cavi, e tutto porta l'energia delle pedalate a diventare suono, luce, e se ci sono delle immagini, schermo, proiettore. Quindi possiamo fare a meno della rete elettrica e con 120, anche 100 spettatori che pedalano. Ma devono pedalare come al Giro d'Italia o possono essere un po' più rilassati? Perché devono devono pedalare come su un lungomare. Perché okay. Il peso della bicicletta non devi trascinare il tuo peso con l'attrito sull'asfalto, perché la bicicletta è inclinata leggermente in avanti, la ruota posteriore fa girare un rocchettino che comunica poi questa energia a tutto il resto. Quindi dinamo che serviva per alimentare la luce. È la dinamo di nonno che tornava dall'orto con la secchia, con i frutti, certo, dell'orto. Intanto è una cosa stupenda, questo è il vostro palco a pedali che, ricordiamo, sono ormai 10 anni che ci andate in giro, per noi è sempre stata una cosa bellissima e l'abbiamo sempre molto molto appoggiata. La cosa che mi chiedevo ancora, per ricordarlo ai nostri ascoltatori, è quante persone devono pedalare. Adesso mi sembra che hai appena detto 100-120 persone, la cosa che mi chiedevo è se tutti gli spettatori pedalano oppure se c'è una parte di pedalatori e una parte di spettatori che invece assistono e basta. Allora, normalmente noi abbiamo fatto gli spettacoli anche per 1000 persone, di cui diciamo 100 pedalavano e magari le altre stavano intorno e guardavano lo spettacolo, oppure chi voleva si davano poteva dare il cambio. Adesso in queste situazioni, in questo momento in cui le priorità sono le distanze eccetera, noi proponiamo lo spettacolo per i soli pedalatori, che sono a distanza di più di 2 metri uno dall'altro, che sono fermi nella loro postazione, perché non è che dalla bicicletta issata sul cavalletto tu puoi scendere per andare a salutare qualcuno, stai lì, devi pedalare. Se un attimo vuoi smettere, puoi anche smettere, però se si smette tutti insieme purtroppo la corrente finisce. Quindi quando abbiamo debuttato a Bari la prima volta diversi anni fa, a un certo punto capita agli artisti che gli vengono chiesti dei bis, a noi ce lo chiesero e io istintivamente, pensando ai concerti normali, stavo partendo, arrivato il tecno, fermo, se non pedalano non sentirà niente nessuno, infatti era tutto stento. Però se pedalano veloce, cos'è? Le mie immagini vanno più veloci sullo schermo dietro, no? Questo sarebbe Charlie Chaplin, ma invece non è così, perché chiaramente tutto deve essere trasformato in una corrente stabile, altrimenti bruci un mixer al minuto. Però i Tête de Bois hanno suonato sempre tante volte su questo palco. In questa situazione particolare ci è sembrato che fosse un'ottima cosa per proporre magari per metterci altri artisti a suonare su quel palco, a fare performance teatrali o a proiettare dei film. Insomma, potrebbe essere una delle idee, magari ci sono altre altrettanto belle, che consentono in questo momento così difficile di vivere l'arte, non e le cose da fare che dobbiamo fare, perché dobbiamo vivere anche bene, no? Questa è vita nostra, di tutti quanti, non come una diminuzione di valore, non col senso della frustrazione, ma partecipando a una bella avventura. È una grande avventura accendere un palco pedalando, perché se no viviamo di cose che prima si facevano meglio e ora purtroppo per un po' si faranno peggio. Invece questa è una cosa che si è sempre fatta così, cioè il palco a pedali ha sempre avuto le biciclette distanti 2 metri, anche di più, ha sempre avuto l'arrivo singolo, dalla bicicletta non potevi scendere neanche prima, certo se a un certo punto ti sei dimenticato l'acqua a casa, scendi e te ne vai e la vai a chiudere, se no ti si allaga il palazzo, però in linea di massima, come in una convocazione teatrale, se sei lì, quello è il tuo posto e resti lì, quindi è adatto per questa situazione, è naturalmente adatto a questa situazione. È molto bello, io non lo so, magari esci con le gambe, infatti. Cosa? Mi chiedevo se avesse dei costi ingenti e se fosse complicato da montare, cioè se ci fossero dei giorni di montaggio. No, dei giorni no, diciamo una giornata ci vuole, perché bisogna trasferirsi, portare tutto il materiale, allestire lo spazio, c'è tutta la caviglia da stendere, una prova da fare. E poi comunque quando arriva, ma questo comunque vale un po' per tutti gli allestimenti, quindi non mi farei spaventare normale, da questo. Sì, bravo, è l'allestimento normale di una piazza scenica nella quale devi mettere un service audio, luci, video, dove devi allestire una platea. Qualunque spettacolo prevede questo tempo, non è diverso dal resto, quindi certo, rientra nelle pratiche da ogni punto di vista dell'allestimento di uno spazio scenico. Noi proponiamo che venga fatto o in grandi spazi aperti, però intorno, in fondo, circondati da qualcosa, in modo che si possa entrare in quello spazio, un chiostro, una fabbrica abbandonata con un cancello d'entrata, insomma, dove la trasformazione sia stata un po' dell'uso di quello spazio, sia un po' anche la poesia di quello spazio. Allora tu illumini veramente una scena anche con quello che c'è stato in quella scena, no? Io ho una domanda sciocca, però immaginavo, insomma, si devono tenere le mani sul manubrio, sennò come si fa ad applaudirvi? O applaudire infatti, in generale? Allora, intanto alcuni ciclisti sono capaci di pedalare senza mani, le mani sul manubrio, ma non chiediamo tanto, perché la bicicletta è in equilibrio da sola, infatti rispetto al fatto che uno si può andare anche in bicicletta a vedere un bel film in una piazza, è sempre una bellissima cosa, per carità. Solo che poi devi tenere in equilibrio la bicicletta tutto il tempo. Invece nel palco a pedali la bicicletta è incastrata nello stallo, per cui tu non devi tenere le mani sul manubrio, ce le puoi tenere per comodità, ma se ti va di applaudire lo puoi fare tranquillamente ed è sicuro che non puoi cadere di là. È una cicletta, dai, alla giusto. Fine, è una cicletta. È la tua bicicletta, è la tua bicicletta. Tornerai certo a casa che quella bici ha fatto qualcosa di veramente speciale, che quella bici non se lo aspettava un giorno, che un giorno avrebbe acceso un palco. E certamente, no, neanche lo diciamo spettatore. Che, siccome, siccome bisogna star seduti sulla bicicletta dall'inizio alla fine dello spettacolo, l'unica cosa che si prega di fare degli spettacoli non troppo lunghi, perché comunque il sellino della bicicletta è il sellino certo. della bicicletta. Sì, un'ora. Ma io le volevo fare invece un'altra domanda, un po' perché sono un fan totale dei Tête Bois e quindi di Andrea Satta, ed è una domanda che esula dalla questione musicale, ma volevo approfittare del fatto che sei anche pediatra. E allora sì. mi chiedevo come hanno vissuto, secondo te, i bambini questo periodo? Ma i bambini questo come... periodo ovviamente di virus. Certo, i bambini come sapete... hanno delle risorse straordinarie perché loro sono innamorati dei dettagli, dei particolari, quindi hanno trovato nella loro capacità di immaginare delle risorse, delle opportunità che purtroppo gli adulti, noi adulti, tendendo sempre alla sintesi, al risultato, alla finalizzazione, perdiamo di vista. Per loro un temperino o l'angolo sgranato di uno spazio, il contorno di un foglio è sempre una vicenda da esplorare, sono degli esploratori i bambini, per cui da questo punto di vista hanno delle carte in più rispetto all'adulto. Certo, i bambini hanno tanto bisogno degli altri, hanno tanto bisogno degli altri bambini, credo che gli sia mancata moltissimo la scuola, quelli che vanno a scuola. Credo che sia mancata molto la possibilità di giocare con altri, con i soggetti, con i bambini che hanno il loro stesso linguaggio. In questo senso diciamo che i genitori spero che abbiano ancora e abbiano avuto la capacità di un po' cambiare le loro giornate e dedicare un tempo di gioco e di creatività per i bambini, perché a seconda dell'età tante cose si possono fare insieme e forse siamo non tanto abituati a farlo. Andrea, noi ti ringraziamo certo. e portiamo i bambini anche a concerto a questo punto con la loro biciclettina, magari, no? Qualcosa ecco, si può fare. Questo dico una cosa e vi rubo un secondo. Ci sono alcune postazioni per ruota 20 che tutte non le potevamo mettere, sennò poi i bambini sono meravigliosi, ma producono tutti i watt che servono, per cui ce ne vogliono 240 però, di bambini invece che 120, giusto? È anche di più. Anche perché si tengono a distrarsi, però qualcuno può entrare. No, perché la ruota è più piccola. Grazie molte, grazie molte, buona giornata, buon concerto. Ciao, ciao, ciao. Carlo, abbiamo un ascoltatore che ha chiamato l'800-24-0024 per indovinare il personaggio della settimana. Si chiama Nicola, chiamato dalla provincia di Bari. Buongiorno Nicola. Buongiorno, buongiorno. Grazie anche per l'attesa. Buongiorno. No, è stato piacevole. Vabbè, però insomma, si era venuto un orecchione. Diamo allora... buongiorno a Nicola di Bari. Allora Nicola, a chi ha pensato lei quando abbiamo dato il primo indizio, e cioè, lo vado a ricordare, che tanti hanno controllato il suo lavoro? Beh, in realtà a cosa ho pensato? Ho pensato al ratto americano di Elon Musk. Ah beh, sì, certo. Perché è passato, no? Ce l'ha fatta. Ovvio, perché è stato controllato migliaia di volte prima di metterlo, di lanciarlo in orbita, anche perché mi pare che abbia avuto pure un rinvio nella sua partenza. Quindi, sì, per maltempo, no? Per maltempo, sì, ma insomma, sembrava così. L'associazione mi è venuta immediatamente, ho pensato a sentiamo cosa ci dicono dalla regia. Non era lui, purtroppo, però siamo contenti di ricordarlo, anche perché finalmente è partita SpaceX, la navicella spaziale appunto di Elon Musk, è la prima spedizione privata e quindi eravamo tutti con l'attenzione per questa avventura e ce l'ha fatta a partire. Adesso vediamo come andrà. Carlo, dai secondo indizio, dai, che mi sembra il momento giusto, che abbiamo ancora una mezz'oretta. Mi sembra assolutamente giusto. Il secondo indizio è: ha preso una scorciatoia. Ok, piccola pausa, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collage, knowing when you're through. Di bambini abbiamo già un pochino parlato con Andrea Satta, di bambini continuiamo a parlare con Alex Corlazzoli, maestro giornalista. Buongiorno e ben ritrovato Alex. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Ciao. Allora, anche tu concordi, insomma, i bambini hanno mille risorse, questo periodo certo non è stato facile, ma è superabile. Sarà più difficile secondo me lo scoglio della scuola l'anno prossimo, adesso poi andiamo a parlare anche del fatto che tornano i giudizi nella primaria, ma l'impatto con la nuova scuola così come viene presentata sicuramente forse sarà ancora più difficile di questi 3 mesi passati. Sicuramente, soprattutto ecco il piano che è stato presentato dal Comitato Tecnico Scientifico, lo dico soprattutto da maestro, è un piano irrealizzabile. Sia dal punto di vista degli spazi che non sono concepibili nella scuola che abbiamo oggi, sia dal punto di vista didattico. Come si fa a fare scuola con dei banchi a 1 metro di distanza? Dovremmo tornare a fare la lezione frontale anziché affrontare quella che è una lezione in cooperativa, anziché affrontare una lezione a gruppi, anziché affrontare una lezione diversa da quella a cui eravamo abituati, ma poi ancora la distanza di 2 metri in palestra. Ma vi rendete conto che chiaramente fare educazione motoria in una scuola primaria significa dare valore al gioco, perché è fondamentale il gioco durante l'educazione primaria, la scuola primaria, e invece come si farà a fare il gioco, a giocare con 2 metri di distanza? Torneremo a fare le flessioni, insomma. Stavo per dire la stessa cosa, infatti, le pertiche, le flessioni, ma neanche troppo, perché poi se devi andare a disinfettare ogni cosa che viene toccata, rimangono giusto le flessioni. Esatto, giusto le flessioni faremo, non potremo fare nemmeno usare nemmeno gli oggetti, come dicevi tu, ma veramente siamo di fronte però a un come piano... si può fare, Alex? Nel senso che è molto giusto quello che tu dici, questo piano forse è irrealizzabile, però come si fa a mantenere la distanza? Cioè, oppure ce ne freghiamo della distanza e diciamo, non lo so, come si può fare? Ma io credo che bisogna puntare soprattutto su quelle che sono le norme con i bambini, le norme igieniche fondamentali, cioè il lavaggio delle mani, per esempio, no? Che è fondamentale. Il mettere la mascherina sicuramente, ma il tema della distanza purtroppo in Italia è irrealizzabile proprio, non è, io ieri ho parlato con da giornalista stavolta, non da maestro, con il presidente dell'ANCI De Caro, ed è molto preoccupato perché in 2 mesi gli enti locali non saranno in grado di costruire nuove aule, per esempio, e quindi ci troveremo di fronte a uno scenario comunque impossibile, quello delle distanze, ed è davvero un problema, insomma, in questo paese. Io credo che fortunatamente il virus probabilmente a settembre sarà attenuato e quindi ecco avremo la possibilità, dovremmo avere la possibilità di attenuare anche quelle che sono le regole di distanziamento fisico per i bambini, puntare molto di più su quelle che sono le norme igieniche generali, cioè come quello certo. Che dicevo prima, il lavaggio delle mani, ecco, che mi diceva anche ieri sera un'infermiera, quindi che si intende di aspetti igienico-sanitari, che è fondamentale ancor più che il mettere la mascherina, il lavaggio delle mani. Sicuramente poi magari anche sfruttare chi può le aree all'aperto, per esempio, per certe situazioni, non lo so, già potrebbero essere alcune, no? Sì, sì, dici bene, c'è proprio un gruppo di ricercatori universitari che ha presentato in commissione istruzione alla Camera un rapporto proprio per puntare a quello che è l'educazione all'aperto. Un'educazione all'aperto programmata, un'educazione all'aperto che possa diventare una sperimentazione nuova, questa è una nuova modalità di didattica che sicuramente potrebbe essere un elemento positivo, e anche perché ci porterebbe a fare didattica in maniera diversa, in maniera nuova, che somiglia un po' più ad alcuni paesi del nord Europa. Di cui abbiamo sempre parlato, adesso potremmo essere costretti, diciamo infatti, così. Infatti, io penso che potrebbe essere... Questa è una delle soluzioni. Prima, quando ti chiedevo come possiamo fare, speriamo tutti ovviamente che la virulenza del virus si attenui e che a un certo punto scompaia. Forse la vera cosa è che mentre attendiamo o mentre facciamo in modo che questo virus scompaia è che la didattica deve anche un po' cambiare, no? Ci continuiamo a dire deve essere un'occasione questa e forse ci dovranno essere 6 mesi di didattica diversa dove si impareranno altre cose, cioè più che imparare le stesse cose, fare tutto identico ma semplicemente a 3 metri di distanza, che penso che sia anche un problema per i bambini, perché comunque anche l'educazione fa parte anche del contatto fisico, del fatto di stare insieme, del fare un gioco di squadra, e quindi forse in questo periodo bisogna imparare altre cose. Hai detto benissimo, Carlo, sicuramente sono d'accordissimo, è proprio il tema della testa tazza ci ha portato, no, della didattica a distanza ci ha portato a fare scuola in maniera diversa, a dare importanza, esatto, ad altre cose, e quindi anche la ripresa dovrà essere sicuramente differente, sarà veramente una sfida educativa nella quale vanno coinvolti in primo luogo i maestri, vanno coinvolti in primo luogo i presidi, che sono altrettanto preoccupati per la realizzazione del piano del Comitato Tecnico Scientifico, e quindi, come dicevi tu, siamo di fronte a una nuova modalità di fare scuola che io spero anch'io di poter realizzare, insomma, nella nostra ripresa a settembre. Altrimenti dovremmo tornare tutti alla didattica a distanza, che è stata un'alternativa valida e possibile. Emergenziale, però non può continuare, esatto, così. Esatto, perché sappiamo che ci sono molte persone che hanno avuto difficoltà, molti bambini che hanno avuto difficoltà a seguire le lezioni. Più di un milione, 1.300.000 non sono stati in grado, li abbiamo persi perché non sono stati contattati per cause diverse, chiaramente chi non aveva il computer, chi non aveva la connessione, chi invece non aveva dei genitori che erano in grado di supportarli a casa. Comunque sono 1.300.000 al dato del Ministero dell'Istruzione. Allora, la questione sulla quale in realtà avevamo deciso di sentire il tuo parere era quella dei voti, però è chiaro che questa prende molto e leggo anche dei messaggi che non ho capito perché, parlando di colleghe insegnanti, immagino un'ascoltatrice, insomma, se la prende con le colleghe che non hanno semplicemente fatto quasi niente, poi dice a noi siate onesti. Non ho capito, forse va detto alle colleghe che non hanno fatto niente, non lo so. Comunque, noi parliamo di questi voti. Allora, Scusa Alex, in realtà il discorso secondo me si lega molto bene, perché da un lato ci diciamo come si può arrivare a un altro tipo di didattica e ci diciamo forse bisogna cambiare tutto, dall'altro sembra difficile anche semplicemente mettersi d'accordo all'interno del mondo dell'istruzione sulla questione dei voti alle elementari, ovvero pare che adesso tornino i giudizi. Che cosa vuol dire? E è giusto? Sono meglio i giudizi? E soprattutto che tipo di giudizi sono? Perché se i giudizi sono semplicemente degli aggettivi che sostituiscono i nomi, i numeri, questo non serve a molto. Se invece sono dei giudizi articolati, come funzionerà questa cosa? Hai detto bene, Carlo, sei un pedagogista, sempre. Si è preparato, ha studiato sui tuoi test. Ha studiato, è preparato. 10 allora. A proposito giudizio. Di voti, giudizio descrittivo dovrei fare. Appunto per questo ho citato giudizio descrittivo, perché siamo di fronte intanto a un emendamento che è stato approvato in commissione istruzione al Senato, che ha avuto fortuna, è stato un emendamento di quelli deboli, di quelli che non dovevano essere considerati. Invece, per fortuna la politica era su un segno. Dovremo vedere, però, come diceva Carlo, che cosa significherà tutto questo. Non possiamo assolutamente tornare a un ottimo, buono e a un distinto, oppure a, come qualcuno prospetta, A, B, C, D, E. Perché in questo caso saremmo di fronte esattamente a quello che significa mettere dei numeri. Mettere dei numeri è cristallizzare, è etichettare, ma è un'etichetta anche mettere ottimo, anche mettere scarso, anche mettere appena sufficiente. E mentre quello che speriamo, non lo spero solo io, che ho fatto da sempre battaglia su questo, ma lo dice anche il Movimento di Cooperazione Educativa, lo dico anche Save the Children e altre 8 associazioni che hanno scritto la Zolina, lo sperano in tanti altri, è quello del giudizio descrittivo, per tradurlo in maniera pratica un po' quello che davano a noi. Credo che abbiamo più o meno la stessa età, io sono 75, insomma più o meno siamo lì. Quello che avevamo noi a scuola, la maestra si permetteva persino di scrivermi "è un po' birichino". Sì. Conta molto di più quello "è un po' birichino" di un 6, di un 7, di un E, di una D. Abbiamo bisogno veramente di vedere un giudizio narrante. Ecco, direi proprio in questo modo. Sicuramente servirà che i maestri facciano uno sforzo in più, servirà, come mi diceva qualche giorno fa il presidente dell'Imbalzi, che ci si metta d'accordo su dei criteri oggettivi su quali andare a compiere un giudizio descrittivo, ma il giudizio descrittivo è molto diverso dall'etichetta che si mette a un bambino. Guardate, a me, io quando ci parlo di numeri mi viene sempre in mente Marco, mio alunno. Io sono arrivato in classe in una scuola dove c'erano addirittura le percentuali sulle verifiche, come se fossero dei dati analitici proprio. E Marco aveva 5, aveva continuamente dei numeri bassi, appunto. Sono arrivato io, ho tolto i numeri, facendo chiaramente opposizione a quella che era la linea della scuola, e ho iniziato a dare fiducia a Marco, a dire "vai Marco, bravo, bravo", anche quando Marco aveva 5 davvero. E Marco è arrivato a 6, Marco è arrivato a 7, Marco è arrivato a 8, Marco è arrivato a 9. Semplicemente perché avevo dato fiducia al bambino. È una cosa fondamentale questa. Alex, è giustissimo. C'è Silvana da Milano che stava ascoltando, sì, e voleva intervenire sulla scuola. Se riesce, Silvana, buongiorno. Sì, buongiorno signora. Se riesce a essere compatta, vogliamo sentire anche la sua osservazione. Guardi, sì, io volevo dire, siccome sento che si scervellano, come fare a settembre i bambini con la scuola, abbiamo tanti spazi belli, abbiamo dei musei, abbiamo delle sale conferenze del comune, della regione. Mettiamo questi bambini in un bel ambiente spazioso, areggiato, di modo che durante la lezione possano anche starsi in piedi, fare due movimenti di ginnastica. Diamogli gli spazi belli, questi bambini devono crescere sereni. Li abbiamo già troppo bistrattati e non stiamo a cercare cose nuove, il voto, il giudizio. Ci sono altri problemi da risolvere adesso. Organizzatevi per settembre. Questi bambini sono stati troppo trascurati. Dategli degli spazi belli. Grazie, che signora. Grazie, signora Silvana. Grazie anche per il suo appello. Grazie molte. Allora, Alex, ci salutiamo con la signora che dice, no, dategli degli spazi belli. Allora, cioè, è bello, è un bel appello che ci portiamo dietro e che lanciamo attraverso il nostro microfono. Ti ringraziamo molto, Alex. Ci sei? Grazie a voi. Certo che ci siamo. Ciao, a presto. Ciao, grazie. Viabilità. Si può fare. Premio L'altro pianeta. Ebbene, siamo arrivati al momento del premio L'altro pianeta. Carlo, sei pronto? La danza non la fai più perché non sei più in presenza. La non faccio, so. La è fai? Semplicemente che tu non la vedi, ma io la faccio. Beh, certo. Facci una foto, facci un piccolo video. Ah, perché sei sul balcone, sei tra quelli che danzano sul balcone. No, no. No, anche perché a Milano oggi non è bello danzare sul balcone, credo faccia freschino se non umido addirittura, non so se piove o no. Allora, il premio L'altro pianeta. Non piove al momento. Non piove al momento. È il premio L'altro pianeta. Lo attribuiamo, insomma, abbiamo a lui, al nostro ospite, per un lavoro che sta facendo in Toscana. Abbiamo detto tanto di cambiamento, di come dobbiamo ripartire, di quali modifiche, di come, no, la nostra vita futura potrà essere diversa. E allora abbiamo con noi in questo momento Francesco Palumbo. Buongiorno. Buongiorno. Direttore di Toscana Promozione, perché? Perché in Toscana si sta avviando una grande piattaforma di 132 comuni su turismo e mobilità sostenibile. Cioè, voi volete riunirli e presentarli, no, al pubblico, ai turisti che verranno, come situazioni, diciamo, in cui avete comprovato la sostenibilità. Sì, assolutamente, sono già riuniti. Sono i comuni della costa, delle isole della Toscana, che però comprende anche una buona fascia dell'entroterra, quindi è una piattaforma di 132 comuni, quasi la metà dei 272 comuni della Toscana, che intorno al tema della sostenibilità per il turismo, già da prima del Covid, hanno iniziato a lavorare insieme a Toscana Promozione Turistica, insieme alla Regione, per presentare questa incredibile piattaforma di turismo, no? Immaginiamo un'area che va dal nord, dalla parte di Massa fino alla Maremma, e che è un'unica piattaforma per il turismo sostenibile. Si piattaforma si intende prima. Piattaforma su internet? Destinazione di offerta turistica, diciamo, okay. No? Che aveva già iniziato a lavorare prima del Covid, perché immaginate che per quanto riguarda il turismo, i visitatori internazionali, i grandi flussi turistici, sono già oggi disponibili a pagare il 10% in più ogni pacchetto se è certificato sostenibile. La stessa Booking, una delle prime online travel agency, si dice che il primo driver di scelta per i viaggi della generazione Z è una destinazione sostenibile. Oppure se uno va sul portale Skyscanner, quello dove si trovano i voli, si vede che il Skyscanner promuove per prime le destinazioni che sono sostenibili, i voli che utilizzano l'ecocarburante. E quindi il tema della sostenibilità per il turismo è passato dall'essere uno slogan così di cui ci si riempiva la bocca, è diventato un vero e proprio fattore di competitività per le nostre imprese, no? E quindi questa destinazione della costa Isole Toscana ha scelto già da tempo di orientarsi sul tema della sostenibilità. Poi è arrivato, diciamo, lo tsunami del Covid, e ancora di più i turisti che riprenderanno saranno attenti al tema della sostenibilità e di quanto impattano nelle destinazioni dove viaggeranno. Ecco perché le azioni che avevamo avviato prima ancora di più oggi tornano utili. Certo, infatti io era questo che mi chiedevo, come giustamente sta ricordando, questa piattaforma nasce prima del Covid, è una bellissima notizia per il turismo, ma adesso che, come lo definisce lei, c'è stato questo tsunami, che cosa cambia? Come cambierà il o turismo? O cosa aggiungete anche? Giustamente lei sta dicendo che loro sono disposti a pagare anche di più se l'offerta è green. Adesso io immagino che le persone saranno disposte a pagare di più se l'offerta è sicura dal punto di vista del Covid. Assolutamente, sono disposti a pagare di più se l'offerta si prende, se diciamo la destinazione, no? Si prende cura del turista da tanti punti di vista, sicuramente da quello dal punto di vista della sicurezza sanitaria. Però mentre alla fine sono poche le persone in percentuale che hanno sofferto proprio della malattia, dell'infezione, molti, anzi tutti, abbiamo sofferto psicologicamente, quindi organizzare una destinazione come una destinazione che si prende cura a 360 gradi dei propri turisti, che quindi sicuramente gli fornisce una sicurezza da un punto di vista sanitario, e da questo la Toscana ha un altissimo standard di sanità pubblica, ma il presidente Rossi ha messo a disposizione di tutti i turisti, anche di quelli stranieri, l'accoglienza sanitaria gratuita nelle strutture sanitarie pubbliche della Toscana. Però al di là dell'aspetto sanitario, che ci auguriamo tutti vada essere, sì, certo. In realtà è prendersi cura a tutto tondo, no? Accogliere bene, prendersi cura della sofferenza psicologica che tutti quanti abbiamo sofferto dei propri turisti. Questo va in aggiunta, diciamo, ai temi della sostenibilità, su cui il Covid di fatto ha accelerato il nostro impegno, l'impegno dei comuni e l'impegno degli imprenditori della costa e delle isole toscane. Senta, io volevo chiederle una cosa. Abbiamo due azioni, no? Due azioni forti, una sulla mobilità e l'altra sulla riqualificazione delle infrastrutture, come infrastrutture che utilizzassero appieno l'ecobonus per riqualificarsi. Ok, senta, come funziona l'unirsi, no? Come vengono selezionati, ecco, i comuni? A cosa chiedete ai comuni perché rientrino, abbiano la possibilità di rientrare in questa piattaforma? Ci sono dei requisiti, diciamo, no? Quindi, che so io, la possibilità delle ricariche elettriche per le auto, oppure dovete garantire perlomeno questo o quest'altro? Sì, assolutamente, dicevo, le azioni sono due. Per quanto riguarda la mobilità, noi abbiamo avviato un accordo con Ferrovie e con gli enti locali, e l'accordo con Ferrovie prevede sia l'aumento dei treni regionali, quindi i nuovi treni che si chiamano Pop e Rock, che sono di livello regionale e che hanno molta più disponibilità per la bicicletta, oltre che viaggiare in maniera molto più sostenibile con meno impatto ai treni stessi. E poi abbiamo aumentato l'offerta dei treni di lunga percorrenza, quindi quest'estate per la prima volta ci saranno treni dello standard qualitativo dei Frecciarossa su tutta la dorsale tirrenica. Questo vuol dire permettere ai turisti che vengono dal nord e dal centro Italia, ma anche dal sud, di venire in treno invece che in macchina, e permettono anche ai turisti stranieri, per esempio, appena riapriranno i mercati classici per la costa della Toscana, che sono la Germania, la Francia e i Paesi Bassi, di venire in treno invece con questa loro, che con la loro macchina. Questo vuol dire però... Ma i milanesi li accetterete? Cosa? I milanesi, va I bene. I milanesi li accetterete o la Toscana chiude? No, la Toscana, come appunto come ha detto anche il presidente Rossi, è una chiede prudenza per definizione, quindi sicuramente faremo questo, però okay. Lavorare, però noi dobbiamo, io devo fermarvi te tutte e due no, perché abbiamo l'ultimo minuto e abbiamo un concorrente per il nostro quiz. Grazie Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione. Come avete sentito, la piattaforma si chiama Costa Toscana, 132 comuni sono già lì riuniti, e quindi insomma a presto, ci vedremo al mare. A voi. Grazie. Allora, l'ultimo minutino, abbiamo in collegamento Lucia dalla provincia di Monza, vediamo se indovina. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona domenica. Come allora, per bene, tutto bene, voi? Bene, grazie. Grazie della compagnia. Niente, per me la risoluzione è il ragazzo di 17-18 anni che frequenta la terza liceo, che ha applicato una nuova risoluzione matematica di un teorema mai scoperta fino ad ora, che è stata resa pubblica dalla sua insegnante di matematica e poi è stata pubblicata su una rivista scientifica. Adesso è passata anche a pubblicazioni di altre riviste scientifiche, per cui una formula mai sperimentata. Sentiamo. Che precisione, signora. Se l'ha studiata la signora, ma non sarà mica la mamma di sto ragazzo. No, però è un genere matematico, laureato in matematica pura. Però non c'entra, ma non per quello, l'ho letto sul giornale. Infatti mia figlia mi ha detto: mi raccomando, non dire che è un genere matematico, ma io l'ho detto perché si fa sempre perfetto, il contrario di quello perfetto. Che dicono i figli. No, anche perché la cosa che quando l'ho conosciuto lui si diverte coi numeri, per cui vabbè, ognuno ha le sue applicazioni. È certo. Spero che non ci saranno ripercussioni per questa sua rivelazione durante il pranzo domenicale. Nel caso ci chiami anche sabato prossimo. Complimenti signora, si è portata a casa un libro. Grazie Lucia, buona giornata, buona domenica. Noi siamo al termine, come si sente dalla sigla. Carlo in redazione, Danilo Di Trani, Andrea Piano, Edoardo Lavezzari. In regia c'è Peter Bescapè. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Sì, certo. Ciao da Carlo Gabardini e buona domenica. E da Laura Bettini, GR24.